Ar-Rad, il tuono. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilayka min rabbika al-haq. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Alif Lam Mim Ra. Questi sono i versetti del libro. Ciò che è stato fatto scendere su di te da parte del tuo Signore è la verità, ma la maggior parte degli uomini non crede. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله è colui che ha innalzato i cieli senza pilastri visibili e quindi si è innalzato sul trono. Ha sottomesso il sole e la luna, ciascuno in corsa verso il suo termine stabilito. Ogni cosa dirige ed esplica i segni, sì che possiate avere certezza dell'incontro con il vostro Signore. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ed egli è colui che ha disteso la terra, vi ha posto montagne e fiumi, e di ogni frutto ha stabilito in essa una coppia. Fa sì che la notte copra il giorno. Ecco i segni per coloro che riflettono. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Sulla terra ci sono porzioni vicine le une alle altre, vigneti, campi di grano e palmeti, a ciuffo o separati, che la stessa acqua irriga. Agli uni diamo però preminenza di frutti sugli altri. In ciò vi sono segni per coloro che capiscono. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Se ti stupisci, è davvero stupefacente il loro dire: quando saremo polvere, davvero passeremo una nuova creazione? Sono quelli che rinnegano il loro Signore e che avranno al collo catene. Sono i compagni del fuoco in cui rimarranno in perpetuo. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. E ti chiedono di sollecitare il male prima del bene, eppure prima di loro si produssero castighi esemplari. In verità il tuo Signore è disposto al perdono degli uomini, nonostante la loro iniquità. In verità il tuo Signore è severo nel castigo. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Dicono i miscredenti: perché non è stato fatto scendere su di lui un segno da parte del suo Signore? In verità, tu non sei che un ammonitore, e ogni popolo ha la sua guida. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله conosce quello che cela ogni femmina. Conosce la diminuzione degli uteri e il loro aumento. Ogni cosa ha giusta misura presso di lui. Alimul ghaibi wash-shahadati al-kabirul muta'al. Egli è il conoscitore dell'invisibile e del visibile, il grande, il sublime. Sawa'un minkum من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Per lui non c'è differenza tra chi mantiene un segreto e chi lo divulga, tra chi si cela nella notte e chi si muove liberamente in pieno giorno. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Ci sono angeli davanti e dietro a ogni uomo e vegliano su di lui per ordine di Allah. In verità Allah non modifica la realtà di un popolo finché esso non muta nel suo intimo. Quando Allah vuole un male per un popolo, nessuno può allontanarlo. Ne avranno all'infuori di lui alcun protettore. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Egli è colui che vi fa vedere il lampo, fonte di timore e di speranza, colui che forma le nuvole pesanti. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Il tuono lo glorifica e lo loda, e così gli angeli insieme nel timore di lui. Scaglia i fulmini e colpisce chi vuole, mentre essi discutono su Allah, colui che è temibile nella sua potenza. Lahu da'watul haqq, wallazina yad'una min dunihi la يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A lui spetta la vera invocazione. Quelli che invocano all'infuori di lui non rispondono loro in alcunché. Sono come colui che tende le mani verso l'acqua finché giunga alla sua bocca, ma essa non vi giunge. Vana è l'invocazione dei miscredenti. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Volenti o nolenti, si prosternano ad Allah coloro che sono nei cieli e sulla terra, e anche le ombre loro, al mattino e alla sera. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Di, chi è il Signore dei cieli e della terra? Rispondi, Allah. Di, prendereste all'infuori di lui patroni che per se stessi non possiedono né il bene né il male? Di, sono forse uguali il cieco e colui che vede? Sono forse uguali le tenebre e la luce? Hanno forse associato ad Allah esseri che creano come Allah ha creato, così che la loro creazione possa essere assimilata a quella di Allah? Di, Allah è il creatore di tutte le cose. Egli è l'unico, il supremo dominatore. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Fa scendere l'acqua dal cielo, e le valli si inondano secondo la loro capienza, e la corrente trasporta schiuma gorgogliante, una schiuma simile a ciò che si fonde sul fuoco, per trarne gioielli e utensili. Così Allah propone a metafora del vero e del falso. Si perde la schiuma, e resta sulla terra ciò che è utile agli uomini. Così Allah propone le metafore. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Coloro che rispondono all'appello del loro Signore avranno la migliore ricompensa. Quanto a coloro che non avranno risposto, se possedessero tutto ciò che è sulla terra e ancora altrettanto, lo offrirebbero per riscattarsi. Avranno il peggiore dei bilanci e l'inferno sarà il loro rifugio, qual tristo giaciglio. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أولو الألباب. Colui che sa che ciò che ti è stato rivelato da parte del tuo Signore è la verità, è forse come colui che è cieco? In verità riflettono solo coloro che sono dotati di intelletto. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Coloro che si attengono al patto con Allah e non mancano all'impegno. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Coloro che uniscono quello che Allah ha ordinato di unire, temono il loro Signore, paventano che il loro bilancio sia negativo. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Coloro che perseverano nella ricerca del volto del loro Signore, assolvono all'orazione, danno pubblicamente o in segreto di ciò di cui li abbiamo provvisti e respingono il male con il bene. Essi avranno per dimora ultima Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. I giardini dell'Eden, in cui entreranno insieme i probi tra i loro padri, le loro spose e i loro figli. Gli angeli andranno a visitarli entrando da ogni porta. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. E diranno: pace su di voi, poiché siete stati perseveranti. Com'è bella la vostra ultima dimora. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Coloro che infrangono il patto di Allah dopo averlo accettato, spezzano ciò che Allah ha ordinato di unire e spargono la corruzione sulla terra, quelli saranno maledetti e avranno la peggiore delle dimore. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah dà generosamente a chi vuole e lesina a chi vuole. Essi si rallegrano di questa vita che in confronto all'altra non è che godimento effimero. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Dicono i miscredenti: perché non è stato fatto scendere su di lui un segno da parte del suo Signore? Rispondi: in verità Allah allontana chi vuole e guida a lui chi si converte. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Coloro che credono, che rasserenano i loro cuori al ricordo di Allah. In verità i cuori si rasserenano al ricordo di Allah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Coloro che credono e operano il bene avranno la beatitudine e il miglior rifugio. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابَ. Così ti inviamo a una comunità, dopo che altre comunità erano passate, affinché recitassi loro quello che noi ti abbiamo rivelato. Ma essi rinnegano il compassionevole. È lui il mio Signore. Non c'è altro Dio che Lui. Ripongo in Lui la mia fiducia e ritorno a Lui. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Se ci fosse una recitazione che smuovesse le montagne, fendesse la terra e facesse parlare i morti, invero l'ordine di tutte le cose appartiene ad Allah. Non vedono i credenti che Allah, se volesse, potrebbe guidare tutti gli uomini sulla retta via? E i miscredenti saranno colpiti da un cataclisma, compenso del loro agire, o la disgrazia sarà prossima alle loro case finché si realizzi la promessa di Allah. In verità Allah non manca alla promessa. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Certamente i messaggeri che ti hanno preceduto sono stati scherniti, ma ho concesso una tregua ai miscredenti, quindi li ho afferrati. Come fu duro allora il mio castigo. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. colui che sorveglia ciò che ogni anima acquisisce, è forse simile alle vostre divinità? Eppure gli attribuiscono consoci. Di, nominateli dunque, vorreste insegnargli quello che ignora della terra? Oppure il vostro è solo un modo di dire? Sì, la perfidia dei miscredenti è stata resa bella agli occhi loro, ed essi sono stati allontanati dalla retta via. Chi è sviato da Allah non avrà guida alcuna. Lahum azabun fil hayatid dunya, wala azabul akhirati ashaq, wama lahum min Allahi min waq. Saranno castigati in questa vita, ma il castigo dell'altra vita sarà schiacciante e non avranno difensore alcuno all'infuori di Allah. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقُبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. È questo il giardino che è stato promesso ai pii. Vi scorrono ruscelli, perennemente vi sono frutti e ombra. Ecco il destino dei timorati di Allah, mentre il destino dei miscredenti è il fuoco. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura si rallegrano di ciò che abbiamo fatto scendere su di te, mentre fra le fazioni vi è chi ne rinnega una parte. Di, non ho ricevuto altro ordine che quello di adorare Allah senza associargli alcunché. Vi chiamo a Lui e verso di Lui tornerò. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. E così abbiamo fatto scendere una norma in arabo. Se segui i loro desideri, dopo quel che ti è giunto della sapienza, non avrai davanti ad Allah né patrono né difensore. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. In verità, prima di te inviammo altri messaggeri e provvedemmo loro spose e progenie, ma nessun messaggero recò alcun segno se non con il permesso di Allah. Ogni epoca ha avuto la sua scrittura. Yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Allah cancella quello che vuole e conferma quello che vuole. È presso di Lui la madre del libro. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Sia che ti mostriamo ciò che promettiamo loro, sia che ti facciamo morire prima, a te incombe il comunicare. A noi la resa dei conti. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Non vedono forse che restringiamo i loro confini esterni? Allah giudica e nessuno può opporsi al suo giudizio. Ed egli è rapido al conto. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقُبَ الدَّارُ. Coloro che li hanno preceduti hanno tramato, ma ad Allah appartiene la strategia suprema. Egli conosce ciò che ogni anima ha meritato, e ben presto i miscredenti sapranno a chi appartiene la dimora ultima. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Dicono i miscredenti: tu non sei un inviato. Rispondi: mi basta Allah, testimone tra me e voi, colui che possiede la scienza del libro.